JD, Malafari, Messina, Sicilia, queste le lapidine sono dimensioni opposte. Non cascarci, man. Ti appare già in TV mostrandosi come un messia. Parla di carestia, ma vive dentro una pazzia. Costruito un personaggio e con coraggio lui lo recita. Ma dentro la sua vita altre mansioni adesso pratica. Si mostra amico ma l'invidia lo corrode. Se la piglia quel più deboli come se fosse rode. Certo c'è da dire che l'essere e l'apparire sono dimensioni opposte. Te stesse le risposte. Onorevoli TV parlano di sicurezza, di legalità, di giustizia senza chiarezza. Ma loro sono i primi che rubano, che tristezza. C'è chi raccomanda, c'è chi manda, chi ti ammazza. Che personaggio sei, il tuo ego quanto vale? C'è chi condanna i gay, ma un figlio omosessuale. C'è chi dice che è fascista, però fa volontariato. C'è chi invece è comunista, col terreno recintato. Ha un posto di successo, una moglie a cui le ha promesso di restarla accanto e di seguirlo ogni suo passo. Per non fare sesso dice che lavora spesso, ma la notte va mignote se le sbatte dentro un cesso. Parla di famiglia e di rispetto per la figlia, però tratta le sue donne come fosse un talebano. Parla di umiltà, di fare la carità, ma qua la verità che tu soldi del Vaticano. Hey, credi che mi appari più complesso? Se vuoi nascondere solo te stesso, man, non credere che puoi farmi pezzo. Ti farei scoprire l'essere non apparire. Hey, credi che mi appari più complesso? Se vuoi nascondere solo te stesso, man, non credere che puoi farmi pezzo. Ti farei scoprire l'essere non apparire. Se ti vuole fare colpe per parlare si contiene, ma quando apre la bocca ne rai un carro bestiame. Già troppe persone contano sul proprio look e nascondono l'essenza dietro il loro Facebook. E qua puntano tutto soltanto sul proprio aspetto, con la conseguenza dell'assenza di intelletto. Fanno i moralisti e si professano altruisti, però poi allo stadio cantano i cori razzisti. Si fanno un alter ego per avere un buon impiego, ma ti spiego che alla fine si scamano nei contesti. Anche tu li hai visti questi tristi personaggi, usano apparenze per venderti dei miraggi. Ti accusano di spaccio se ti fai una cannettina, però poi in cantina tengono la cocaina. Se io avessi una piantina mi direbbero che inquina, mentre che sporca nel mondo come fosse una latrina. Fanno il segno della croce, poi una guerra atroce. Ci parlano di pace mentre stuprano i bambini. Promettono la luce, si comportano da luce per tapparci bocca e voce, trattarci da burattini. E poi ci dicono gli darà chi ha bisogno, ma con i loro soldi realizzano i loro sogni. E appaiono più onesti anche se in caso lo sventura. Ma intanto fanno i divi, siamo privi di cultura. Hey, credi che mi appari più complesso? Se vuoi nascondere solo te stesso, man, non credere che puoi farmi pezzo. Ti farei scoprire l'essere non apparire. Hey, credi che mi appari più complesso? Se vuoi nascondere solo te stesso, man, non credere che puoi farmi pezzo. Ti farei scoprire l'essere non apparire. Hey, credi che mi appari più complesso? Se vuoi nascondere solo te stesso, man, non credere che puoi farmi pezzo. Ti farei scoprire l'essere non apparire. Più complesso se vuoi nascondere solo te stesso, man.